Deve esserci un posto, dimenticato da anni, sotto un'indistinta progenie di amanti infelici. Un posto a cui possa tornare, sfinito, da un'altalena di abisso. Reclamando promesse mai fatte a orecchie tese, a ricamare la trama d'un incontro perfetto, nell'ordito sporco di sbagli retrivi. Vera, come un pugno sul muro dato nel sogno, scoperto in un risveglio di nocche insanguinate, vera, come la banale disperazione di fronte a un banale epilogo, nell'incontrollabile distinzione tra consumare ed essere consumato, sorto come asservimento in fuga, dalle catene a trascinarsi indietro. Deve esserci un posto, conservato intatto, tra macerie e cattedrali, ingenuo e sacro, come protetto dal patto infantile, infestato dal dolore e nella paura di amare. Ecco, io ti insegno il distacco, l'irreprensibile condanna alla superficie. Santifico rumore di passi, smarriti, nell'inconsistente adagiarsi della memoria. Tu mostrami ancora il dramma della profondità. Fango alle caviglie, la testa trafitta da orizzonti simultanei, mutarsi in pietra, d'improvviso, come rifiuto totale. Sarò l'increspatore in mezzo di un